Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Siete a bordo dell'astronave Enterprise. Benvenuti. Questa è Star Trek, viaggio nella storia. Stavo pensando proprio ai programmi seri, no? I disc jockey, quelli seri hanno anche proprio una classifica, una hit parade. Allora mi sono detto, facciamo anche noi una hit parade, no? Dov'è che ascoltiamo le tre canzoni preferite del sottoscritto, spero apprezzerete. Facciamo dalla 3 alla 1 i dischi caldi di Andrea. Insomma, uno esperimento un po' nuovo che faccio qua su Spreaker Radio. Sì? Scusate il telefono, vado un attimo a rispondere. Pronto? Chi è che risponde? Sì, la discoteca. Va bene. Sì. Sì, sì, sì, sì. Va bene, ok, se lo dici te, dai. E l'amico Claudio che mi ha fatto un jingle particolare. Partiamo subito con la nostra hit parade nella posizione numero 3, dove ritroviamo Love Unlimited Orchestra. Lo troviamo per la prima volta. La canzone è intitolata Hey Stepping Heat Dressing Bella. Free. Posizione numero 3, Love Unlimited Orchestra, Hey Stepping Heat Dressing Bella. Gran pezzo veramente, vi ricordo che siete all'ascolto della hit parade di Star Trek con Andrea, www.startrekonline.org per avere maggiori delucidazioni sulla trasmissione sul mio sito. Sì, chi è? Ciao, bella gioia! Ah, eccolo qua, non poteva mancare. Impeccabile, oserei dire, il vecchio Renatone. Vi faccio salutare anche da un amico che è qua con me. Vieni, vieni Claudio. Un dolcissimo ciao a tutti da Claudio Cecchetti. Dai, ragazzi, ero io, no? se non faccio un po' lo stupido. Vabbè, dai. Se non faccio più lo stupido, siete l'ascolto della Hit Parade. Ora della posizione 3 saliamo ancora di un gradino, dove ascoltiamo ovviamente la posizione numero 2, sempre in rigorosa diretta con il vostro amico Andrea al microfono e in questo caso anche al mixer. Alla 2 c'è questo bellissimo pezzo, già in sottofondo già sta girando alla grande. Loro sono i Crown Heights Affair. Il pezzo è intitolato I don't wanna change you. Crown Heights Affair alla posizione numero 2 nella Hit Parade di Star Trek, viaggio nella storia della musica, ancora 10 minuti insieme. E dopo la posizione 2 ascolteremo il disco caldo, la canzone più bella di Star Trek. Number 2. Posizione numero 2, Chromate Affair, I don't want to change you. E ora ragazzi, è arrivato il momento veramente di scalare la vetta della Hit Parade di Star Trek, viaggio nella storia della musica con Andrea. Prima però, come si suol dire, come si fa proprio nelle classifiche impegnate, un veloce riepilogo dei brani ascoltati proprio poc'anzi. Alla numero 3 abbiamo aperto la Hit Parade con Love Unlimited Orchestra con How is Stepping Heat Dressing Well. Mi sono un attimo incartato, scusate. Alla posizione 2 invece Crown Heights Affair con I Don't Want to Change You. Ed era la nostra Hit Parade qua in diretta su Spreaker Radio, in diretta con la musica più bella del mondo, la musica della discoteca. Sì, la discoteca, la musica del disco. Vabbè, ok, anche di giorno. Sì. Ok, grazie. Bravo, vabbè. Abbiamo questo amico che ha introdotto, insomma, la posizione numero uno. Certo che la discoteca è sempre questa. Ed ora, attenzione ragazzi, creiamo l'atmosfera veramente da disc jockey negli anni 70. Dopo la posizione 2 arriva immediatamente la posizione numero 1 della Hit Parade di Star Trek. Questa settimana chi è che ci sarà la numero 1? Bah, vediamo di scoprirlo un pochino insieme con questo vinile. Eh già, è lui, la 1. Lo zio Barry non si smentisce mai. Alla posizione numero 1 c'è You See the Trouble With Me, Barry White. Number one. number one. Posizione numero 1, number 1, era Barry White, You Said Trouble With Me. Gran pezzo veramente questo dello zio Barry. Una telefonata? Vado un attimo a vedere che c'è il telefono, ovviamente che il telefono è anni 70. Pronti? Chi parla? I am Barry White. Era Barry White in paradiso, dai, vabbè ragazzi, non diciamo stupidate, come sono solito dire. Era la Hit Parade di Star Trek. Rimettiamo un attimo ancora questa bella base meritata, la numero uno veramente meritata di questa settimana. Barry White, You Said The Trouble With Me, number one. Io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato Star Trek Viaggio nella Storia della Musica. Ci ritroviamo ancora insieme prossimamente. Ora scappo perché insomma devo andare a vivere la notte, il venerdì notte. Vediamo un po' cosa c'è di bello in giro per questa notturna. Speriamo ci sia molte cose belle, che ne dite? Molto molto di bello, non lo so, beh, comunque ringraziamo tutti gli amici che sono intervenuti all'interno della nostra trasmissione. L'amico Claudio, veramente purissimo, eccolo, sì, è lui. Molto molto, sì, beh, tutta la notte si spera, tutta la notte non saprei, tutta la notte non saprei, però se lo dici te, Claudio, vabbè, ci proveremo. Ringraziamo anche Renatone, quindi tanto passo a farci un saluto. Ciao, bella gioia. Ecco, grazie anche te, Renatone. Avete ascoltato la Hit Parade di Star Trek Viaggio nella Storia della Musica, number one, Barry White. Ci ritroviamo prossimamente con un'altra trasmissione. Vediamo un po' cos'è che saprò inventarmi. Buona serata a tutti e mi raccomando, buon ascolto con i programmi di Spreaker Radio. Ciao ciao a tutti, buona serata.